buongiorno, ringraziamo la compagna di Parigi del collettivo La BAF, che è Brigate di Azioni Femministe, ma è anche un gioco di parole, vero? Beh, sì, in francese la BAF vuol dire schiaffo, lo schiaffo. Ah, ecco, simpatico. E in questo registrato ci faremo raccontare qualcosa sulle mobilitazioni delle donne e di Gisèle stessa. Andiamo a parlare proprio intorno a questo processo Pellicot, proprio del punto di vista delle donne, del nostro punto di vista, che non è, sappiamo, quello dei tribunali. E prego, raccontaci pure, grazie. Allora, ieri c'è stato il risultato di questo processo di 4 mesi, che hanno chiamato come un processo fuori norma, e è stata molto pesante la giornata di ieri, perché... perché diversi sono usciti liberi dal tribunale, che le donne erano fuori, c'era una manifestazione, che c'è un avvocato che le ha aggredito, che le ha detto che il suo cliente le mandava a fanculo, no? Vabbè, quei che sono usciti liberi erano molto contento, diciamo, no? E allora è stato duro per tutte le donne che si sono mobilizzate per 4 mesi, no? Per sostenere, anche per la famiglia, che è molto... che c'è Gisèle, che è una donna, c'è la sua figlia, che si chiama Caroline Darian, che pure lei è stata aggredita dal padre, e ci sono i due fratelli, e loro sono molto, pensano che questo processo non è stato all'altezza delle loro speranze, diciamo, e sono molto arrabbiati. Vabbè, questo processo doveva, no, inviare un messaggio alla società, diciamo, sul rispetto all'integrità delle donne, doveva proteggere le vittime, Caroline e Gisèle, no? E doveva anche proteggere le vittime per procurazione di tutti questi uomini, che erano tutte le donne che venivano a questo processo, e anche tutte le donne in generale, diciamo, no? Mandare un messaggio doveva essere di protezione all'integrità delle donne in generale, e doveva anche creare un dibattito pubblico su, no, la questione del consenso, su tante cose. E al di là della condannazione, no, doveva aprire questo dibattito di società e farla cambiare. C'era questa speranza. Allora, chiaramente gli obiettivi non sono stati raggiunti, malgrado la resistenza delle donne in tanti modi durante questi 4 mesi. La prima resistenza è stata quella di Gisèle Pellicot, che ha chiesto che questo processo sia a porta aperta, perché è stato chiesto di farlo a porte chiuse, no? Per non scioccare con l'immagine, per preservare lei, ma lei ha resistito e ha detto di no, che questo processo ci aveva senso per cambiare le cose. E ha avuto questo coraggio di affrontare questi 4 mesi a porte aperte, perché ci siano i giornalisti, perché ci siano le donne che venissero pure ad assistere a questo processo e a sostenerla. E allora ci sono state sempre le donne sono state tutti i giorni ad assistere. Quello lo devo spiegare, cosa consisteva assistere a questo processo, perché io sono andata intorno al 25 novembre, 3 giorni, e ho visto la situazione che le donne lì e al collettivo Amazon d'Avignon, che è quel collettivo che si è investito tanto, che ha fatto turni per stare sempre lì, cioè, cosa si sono vissute, che era veramente una tortura, cioè, non c'era spazio, entrare nella sala del processo. E allora in una sala c'era Giselle da sola con i suoi avvocati e la sua famiglia quando c'era, e tutti stupratori che sono 50 con gli avvocati. Immaginate quante persone rappresenta questo. E allora il pubblico non poteva entrare in questa sala, e c'era un'altra sala piccola pure, dove c'erano 40 persone che potevano entrare, e lì c'erano già 20 giornalisti, diciamo. E allora le donne facevano la fila e potevano, si proprio si incanivano, potevano entrare in quella sala con la televisione, ma non erano dietro di lei, no, non vedevano i stupratori. Vabbè, diciamo che era un problema logistico. Però era anche un problema che gli stupratori non sono mai stati di fronte alla gente, mentre era un processo pubblico. E loro camminavano nel tribunale con le maschere, così non si vedevano. Era veramente una cosa allucinante avere tutti questi stupratori intorno, che erano nascosti. Volevo dare una precisione: non tutti gli stupratori camminavano nel tribunale, e meno male, sennò sarebbe stato insopportabile, perché alcuni erano in carcere, allora andavano nella sala del processo direttamente dal carcere. Erano solo quelli che erano liberi che stavano in giro, però erano già troppi. E l'ambiente di loro che si parlavano tra loro, che diventavano amici, no? Perché fumavano insieme, no? Bisognava passare in mezzo a loro per entrare, cioè, veramente era atroce. E le donne di Avignon, le amazzone di Avignon, hanno scritto più lettere al tribunale chiedendo, per esempio, che per il cesso, che ci siano il cesso, cessi separati, che loro andassero in alcuni cessi e le donne che venivano potevano andare in altri, però non se ne sono fregati proprio, che quello non era un problema logistico enorme di decidere questa cosa, no? Di dividere i cessi, porco Dio. Vabbè, però, vabbè, meno male le donne, cioè, hanno inventato delle cose per resistere a questa situazione. Allora, ogni volta che entrava Giselle e che usciva, applaudivano tutte, era bellissimo, risuonava nel tribunale. Poi quelle di Avignon hanno incollato la città, cioè, sai, quelle collage sui muri che no, sono diventata una cosa in Francia con le lettere separate, così hanno fatto delle collage bellissime con delle frasi di Giselle, delle frasi di stupratori, per capire l'enormità delle cose che dicevano loro, no? Tipo, no, non ero io perché era il mio corpo, ma non io perché io non l'avrei fatta questa cosa. Oh, tante cose assurde, cioè, veramente. E vabbè, si sono inventate delle cose per resistere e per creare questo dibattito pubblico alla forza. C'è anche la figlia di Giselle che ha creato, ma prima del processo, un'associazione che si chiama Nome Addormenti sulla tematica della sottomissione chimica per avviso di stupro, no? Ci sono diverse cose che si sono messe in moto, no? E tutte queste donne che venivano, non solo femministe o donne che volevano sostenere, anche vicine di quel villaggio, anche donne, vabbè, tutti i tipi di donne. Per questo che veramente era un non rispetto di noi, perché no, si stava nella fila in piedi, cioè, no? Quando ci sedevamo per terra perché eravamo stanche, ci fanno: ah, qua non stiamo in una stazione, no? In piedi. Cioè, veramente un disprezzo, secondo me, perché le donne vittime. Va bene, ma le donne che si mobilizzano, che urlano, che applaudiscono, cioè, questa cosa non sopportano, hanno paura che si debordano le cose, che non so come si dice, come una olla, no? Che che se oltrepassano, no? Le limite, hanno paura. Come un'onda. Sì. Hanno paura e allora ci restringono lo spazio, ci restringono le possibilità, ci restringono tutto. Allora, il 25 di novembre hanno organizzato lì una manifestazione davanti e vabbè, c'erano i slogan così e c'era uno slogan che diceva violeur, t'habites dans un mixeur. Violeur, t'habites dans un mixeur, che significa in italiano stupratore, il tuo cazzo nel fruratore. Che vabbè, c'erano diversi slogan, però quello per esempio. E poi è stato per dire quanto cioè, la violenza delle no donne è insopportabile. Come vittime andiamo bene, ma come attrice veramente c'hanno paura o non sopportano, non lo so. C'erano articoli di giornale che dicevano che la violenza delle donne era andato a un punto veramente esagerato, no? Cioè, con un cartello che dicevano. Un stupratore, il tuo cazzo è un frullatore, vabbè. E questo e poi quella sera, ma eravamo poche, eravamo non so quante, forse 50 fuori, non lo so. Cioè, hanno fatto uscire i stupratori da dietro per non fare le parasite davanti a noi. No, ma per dire, cioè, vabbè, tutto un contesto che non è stato dato il posto alle donne che doveva essere stato dato e hanno protetto questi stupratori dalla rabbia popolare che veramente no, era limitante, no? Cioè, gli applausi no, andano bene, vabbè, qualche insulto, ma veramente leggero, solo per dirle di abbassare gli occhi, che non è una cosa grave, no? Quando sei un stupratore di una cosa così atroce, no? E che ti muovi così in mezzo alla gente, no? Abbassi gli occhi? Vabbè, insomma. Allora, questa cosa potevo raccontare sulla mobilitazione e poi potrei dire che anche se no, il dibattito pubblico non è stato no, quello che doveva essere, perché no, le istituzioni diciamo, non hanno seguito, lo stesso ci sono stati dibattiti sulla questione del consenso, su questo famoso libertinaggio che abbiamo qua in Francia, no, che è tipo, no, tutte le cose sono possibili perché è libertinaggio, no? E sulla pornografia perché tutti, no, tutti consumavano delle video pornografiche e pedopornografiche cioè, no, nei loro computer. Allora ci sono anche questi dibattiti. Anche la questione degli esperti psichiatrici che sono nei tribunali. Perché c'è uno, per esempio, ha fatto questa esperta su sette stupratori e hanno detto che loro non erano dei abusatori sessuali, non lo erano perché l'avevano fatto su una sola donna. Beh, sì, per le altre sicuramente non sono state beccati, insomma. E poi c'è uno che era venuto 6 volte da Giselle. E lui, anche se l'aveva fatto più volte, non era un abusatore perché era la stessa donna. Allora non era un abusatore, era uno che aveva stuprato più volte una sola. Voilà. Allora, delle cose assurde così che hanno fatto dibattito, che sono state un po' riprese nei media e che hanno un pochino veramente rimessa in questione, no? Anche la giustizia francese e piuttosto le idee di fondo che stanno dietro la nostra giustizia e la nostra società in generale. Questo processo è finito ieri. Però in realtà non è finito perché forse ci saranno dei appelli Cioè, la questione di questo processo non era Dominique Pellico, il marito, perché lui ha sempre detto che aveva fatto quello, ha pure documentato i suoi crimini, diciamo, no? E ha assunto, ha detto sì a tutto, a parte all'aggressione sulla sua figlia, che lei è molto incazzata perché non ha mai detto che l'aveva aggredita, invece ci sono foto della figlia nel suo computer, la mia figlia nuda. La mia figlia così e lui, vabbè, ci sono foto di lei con una mutante che lei non conosce in una posizione che non ha mai dormendo. Allora, lei lo sa che è stata sedata lo stesso e ugualmente e stuprata proprio, no? Però ha voluto che lui lo dicesse, non l'ha mai detto vabbè. Però, vabbè, a parte lui che, no, che ha preso al massimo e che è stato riconosciuto di tutto, no? Sono gli altri la questione. Questi altri, no, 50, 70, no? Uomini che, no? Che a 20 km intorno al domicilio, no? Cioè, sono tanti, cioè, sono tanti che hanno fatto la stessa cosa su una donna sola, cioè, e questo crimine là che deve essere, no? Condannato in un certo, no? Senso. Sono loro, la questione. E anche l'avvocata di Dominique Pellico, dal marito, anche questa avvocata, cioè, che è una che è stata abbastanza rispettuosa, cioè, dall'inizio, al contrario degli avvocati che tanti erano veramente dei pezzi di merda della difesa di stupratori, hanno de detto delle cose oscene come potete immaginare, no? Che lei mentre addormentava era sedata, no? Aveva una posizione sessuale, cioè, che, no? Che uno, cioè, l'aveva toccato, si era mosso un po', voleva dire che lei non dormiva, cioè, delle cose, vabbè, orribile. E invece l'avvocata di lui non ha mai detto queste cose, però lei vuole che sia riconosciuto la colpabilità di questi 70, 50 altri, cioè, perché no? È una cosa collettiva questo crimine, non è uno solo che l'ha fatto. Allora, forse ci saranno gli appelli, ma non si sa ancora. E ci saranno ancora dibattiti, cioè avrà lo stesso, cioè questo processo avrà marcato la storia in Francia lo stesso. E ci saranno tante discussioni intorno a questo ancora. E immagino che a Natale, no? Nelle scene familiari natalizie, ci saranno qualche discussione che forse, no? Non saranno facili perché, no? Ha toccato molto punto e no? Penso che la gente, e in particolare le donne, sono molto incazzate.